Dai, ballerina. Esci dall'ombra. Anche perché ti amo e non ti amo. Questa notte saremo temerari. Dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura? Dopo la notte, dopo la paura. Dammene ancora. E dici che mi vedi e non mi vedi. E infatti io ci sono e non ci sono. Dal 30° piano del palazzo un filo corre sopra la città. Ti guarderò, mi guarderò guardare. Anche se il mio dottore dice che fa male. Dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura? Dopo la notte, dopo la paura. Dammene ancora. Dammene ancora. Eros, tigre d'amore, mi ha colpito. Cavalcava le nuvole leggere. E lei ebbe il tremore di una cerva all'apparire dell'aquila veloce. Portami alle sorgenti della notte, amore, e fammi perdere la strada. Dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura? Dopo la notte, dopo la paura. In fondo al vino, in fondo al sangue nero. In fondo al mare che si rovescia in cielo. Dammene ancora.